Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: torneremo a parlare di Grecia, perché la Grecia è al centro dell'Eurogruppo di oggi, la Troica, ma non solo, devono decidere lo stanziamento, la tranche per la Grecia, come si chiama in gergo. Di Grecia oggi ha parlato anche Mario Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea. Dicevo, la Troica, Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea, ha raggiunto un accordo sulle misure che la Grecia dovrà attuare per assicurare il rispetto degli obiettivi fissati nel programma di risanamento. Le conclusioni di questa Troica sono sul tavolo dell'Eurogruppo, che inizierà stasera, quindi i ministri economico-finanziari dei paesi dell'area euro, e che dovrà pronunciarsi sullo sblocco di una nuova tranche di aiuti ad Atene. La cifra dovrebbe essere compresa fra i 3 e gli 8 miliardi di euro, questo per quello che riguarda la Grecia. Attenzione, perché Draghi ha parlato di Grecia, ma non solo, ha parlato anche delle condizioni del mercato del lavoro in Europa e soprattutto dei tassi. Ha confermato che alzare i tassi destabilizzerebbe paesi già deboli, poi ha definito il disagio sociale in alcuni paesi una tragedia vera e propria. Poi, come sempre, la borsa che oggi procede più che positiva per quello che riguarda Milano, nel senso che il guadagno dell'1,60%, ma anche a Parigi del 2%, Francoforte più 2,35%, Londra più 1,50%. In recupero, grazie anche alle parole di Draghi, ma non solo, i titoli bancari, più 6,90% il Monte dei Paschi, più 4% Azimut, più 3% Generali, più 2,90% Mediolanum, più 2,70% la Popolare Emilia Romagna e la Popolare Milano, ancora più 2% Unicredit. Fiat, che non c'entra con i bancari, guadagna il 2,80%, di Fiat parleremo perché ci sono dichiarazioni rese da Marchionne oggi, proprio in tema e sulla vicenda Fiat. Ancora Mediobanca più 2,40, diciamo Luxottica più 2,20, Exor più 2, Mediaset più 2, Campari più 2 e Enel più 2%. Pirelli guadagna 1,90 come Tenaris e Diasorin. Enel Green Power più 1,90, Ubibanca più 1,60 come Telecom Italia. Banco Popolare più 1,5 come A2A e Ferragamo, ma anche ST Microelectronics. Chi perde? Solo G-Tech, meno 1,40%. Dicevo, parleremo della Fiat, ma parleremo anche dell'appello lanciato oggi dal presidente Confindustria e soprattutto dal tema che già affrontammo la scorsa settimana, e quindi il rischio che con questa crisi scompaia un pezzo di manifatturiero importante in Italia. Più che un rischio, si sta rivelando, ahimè, un dato di fatto. Ogni 2 ore in Italia muoiono 3 imprese, 5.300 imprese chiuse nei primi 5 mesi di quest'anno, e, tra l'altro, in settori che vedono purtroppo in testa le attività manifatturiere, 1.130 fallimenti, le costruzioni 1.130 anch'esse, il commercio, sia il dettaglio che l'ingrosso, 1.200, ma anche le attività immobiliari. È chiaro che l'edilizia è il settore più colpito, ma poi c'è anche un effetto ulteriormente perverso in questa crisi, e cioè molte imprese stanno seriamente pensando, da dove possono, di trasferirsi all'estero. Ce ne occupammo già mesi fa, qui non è solo più la Svizzera, ma è anche la Carinzia, sono anche parti confinanti della Francia. E cioè, qui c'è il rischio non solo che le imprese chiudano, e ripeto che purtroppo, visti i numeri, è un dato di fatto, ma anche che le imprese vadano e trasferiscono la loro attività in aree più amiche dell'impresa. E per amiche dell'impresa intendo dire burocrazia in primo luogo, facilitazioni per quello che riguarda lo sblocco degli investimenti in secondo luogo. Di questo parleremo con chi, diciamo, tempo fa organizzò proprio una missione di imprenditori veneti in Carinzia. Vorremmo sapere a che punto sono, per monitorare questo fenomeno. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. La borsa abbiamo detto, andiamo avanti con le altre notizie, la benzina, effetto anche Egitto, il prezzo medio sale, mi riferisco quasi al petrolio, a $102.47 al barile oggi. La benzina invece, ecco perché il lapsus, oggi è uscito il dato sul prezzo medio nel 2012, è volato a 1,787 euro, il più alto di sempre in valori correnti, mentre il record a prezzi attualizzati resta del 1977, lo shock petrolifero. A prezzi attuali, allora la benzina si pagava 1,90 euro. Una buona notizia arriva per quello che riguarda, va presa con le pinze, ci mancherebbe, il mese di maggio sulla crescita in Italia e nella zona euro, che ha continuato a guadagnare slancio. Il super indice OCSE ha registrato un incremento dello 0,13% su base mensile e dello 0,27% per l'Italia. Buona la crescita anche in Germania, stabile la situazione invece in Francia. Però in Germania, a sorpresa, nel mese di maggio vi è stato un calo dell'export, meno 2,4%. A chi ci chiede invece degli spread, sono poco mossi sostanzialmente a 265 punti, con un rendimento del BTP al 4,35%, il differenziale con la Spagna a 292 punti. E oggi il ministro allo sviluppo economico Flavio Zanonato, a proposito dei primi segnali incoraggianti per il paese, ha detto: si vedono i primi segnali, l'ho detto a margine dell'assemblea degli industriali di Torino, siamo giunti a un momento delicato, però la cultura del rigore, quando non è associata ad altro, cioè il rigore fine a se stesso, deve essere superata, e sembra, ha aggiunto Zanonato, che inizia ad essere superata anche nella testa dei non pochi decisori di Bruxelles. Quanto all'IMU, Zanonato ha confermato che le prossime tappe sono evitare l'incremento di un punto dell'IVA e intervenire per ridurre l'IMU sulla prima casa delle famiglie, sugli immobili strumentali delle aziende, su capannoni, negozi e terreni. Ha detto, riferendosi agli imprenditori, la prima casa per voi imprenditori. Le prossime tappe le abbiamo definite, dobbiamo evitare l'incremento di un punto IVA a proposito del mercato interno e dobbiamo intervenire per ridurre l'IMU sulla prima casa delle famiglie e sugli immobili strumentali delle aziende, sui capannoni, sui negozi, sui terreni, che è la prima casa, se vogliamo, degli imprenditori, oppure che è l'equivalente di una loro grande macchina di produzione, un tornio, una pressa, quello che vogliamo. Non si può tassare questa attività. È più cauto, per modo di dire, il presidente di Confindustria, il quale ha detto: attenzione, tornando alla polemica con il ministro Saccomanni sulla luce in fondo al tunnel, non vediamo la luce in fondo al tunnel, siamo in recessione da 9 mesi. Saccomanni, il ministro Saccomanni è ottimista, ma nonostante appunto le sue dichiarazioni non vediamo luce in fondo al tunnel. Squinzi è intervenuto questa mattina alla giornata della collera, manifestazione degli imprenditori davanti a Piazza Affari, e ha detto: attenzione, io l'ho definita un lumicino, tra l'altro questa luce in fondo al tunnel non determinata dalla situazione economica italiana ma da quella internazionale. La situazione che noi stiamo incontrando è una situazione veramente difficile. I dati degli andamenti economici degli ultimi tempi purtroppo li conoscete, purtroppo siamo in recessione ormai da 9 trimestri, non riusciamo a vedere ancora la luce in fondo al tunnel, nonostante le dichiarazioni ottimistiche del ministro Saccomanni. Io l'ho definito un lumicino, che peraltro non sarà determinato da noi, da noi italiani, ma dall'Italia, dal nostro paese, ma sarà un miglioramento della situazione economica internazionale. Le vessazioni sono quelle che ci impediscono di ripartire nel ciclo economico. Vorrei ricordare che in questo momento il caso degli Stati Uniti, dove la ripresa che è partita, che è ripresa a generare nuovi posti di lavoro, è basata in grande parte sul settore delle costruzioni. Il fatto che noi non si riesca a ripartire è dovuto essenzialmente alla complicazione normativa burocratica di questo paese. Così appunto il presidente Confindustria a Milano alla giornata della collera. Squinzi ha anche aggiunto di sentirsi come uno di voi, riferito ai partecipanti, come imprenditore, come cittadino, basta con le vessazioni al sistema produttivo. E poi si è spostato a Torino, dove il presidente Confindustria, appunto a Torino si teneva l'assemblea degli industriali di Torino, è tornato sugli interventi. Allora, dopo aver detto che il governo, comunque, da questo punto di vista, che il paese ha bisogno di un buon governo, di una stagione di realpolitik, e che il governo Letta in questi due mesi alcuni risultati, anche se ancora timidi, li ha raggiunti, e Confindustria li ha apprezzati, anche se, ha aggiunto Squinzi, occorre uno scatto di orgoglio e di proposta, dicevo, oltre a questo, Squinzi ha detto: ci sono interventi più urgenti da fare, so che c'è un dibattito in corso, ma ci sono interventi più urgenti da fare rispetto a quello sull'IVA e a quello sull'IMU. Credo che ci sia un dibattito in corso, noi la nostra idea l'abbiamo già esplicitata ancora prima di IMU e IVA. Per noi ci sono due interventi più urgenti, che sono il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e l'intervento sul cuneo fiscale del lavoro, quindi sul costo del lavoro, che deve assolutamente essere abbattuto di almeno 10 punti. E sempre su questo tema, ricordo che domani vi sarà un inedito confronto tra Confindustria e Parlamento, ossia una cena, un incontro a cena nella forestiera di Confindustria in via Veneto, tra il presidente degli industriali Squinzi e il presidente di Camera, Senato, di tutte le commissioni parlamentari. Per quello che riguarda l'Unione Europea, invece, Squinzi ha aggiunto che è stata incerta nel completare l'integrazione politica ed economica e ha penalizzato in questo modo i paesi più deboli come il nostro, e si è chiusa Bruxelles in un ostinato quanto dannoso rigorismo, che è una cosa diversa il rigorismo dal rigore, eh? Il rigorismo è vedere il rigore come unica soluzione, quasi come approccio ideologico. Parleremo poi delle dichiarazioni invece su Fiat e anche sul fatto che Fiat ha esercitato la terza opzione per acquistare una quota del 3% di Chrysler da Weber. Però oggi Marchionne ha fatto notare che la trattativa con Weber non ha ancora dato buon esito, non abbiamo nulla da annunciare. Oggi abbiamo esercitato la terza opzione. E poi sulla Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori sulla parte relativa alla rappresentanza, ha detto: aspettiamo le motivazioni. Una parola invece Marchionne l'ha data anche, e l'ha avuta anche, per il gruppo Rizzoli Corriere della Sera, la partecipazione di Fiat nel gruppo RCS, definita da Marchionne strategica. Se accetto il pagamento che gli abbiamo offerto, chiudiamo in settimana. No? Ma la trattativa non ha dato finora l'esito? Non ancora abbiamo niente da annunciare. Dottor Marchionne, quali le conseguenze dopo la sentenza della Consulta? Non lo so ancora, bisogna capire esattamente cosa diranno. Stiamo aspettando la decisione. È strategica per chi? Non avremmo investito i soldi se non lo fosse. Allora, poi parleremo di Fiat e di Marchionne, però adesso vorrei restare sulla Grecia, che ciclicamente ritorna come tragedia, ma anche e soprattutto come misure. La cifra della nuova tranche di aiuti ad Atene dovrebbe essere compresa tra i 3 e gli 8 miliardi di euro. Oggi vi è stata anche un'audizione del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi di fronte alla Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo. Ha detto il possibile pagamento della tranche potrà arrivare anche in due fasi, ma soprattutto per quello che riguarda la dichiarazione di Draghi, ha detto che bisogna congratularsi con il governo greco, che va invitato a procedere sulla strada delle riforme ora che si vedono i frutti, anziché voler rivedere la storia con gli occhi di oggi. Ha detto Draghi, si riferiva anche al Fondo Monetario, che in un documento ha sostenuto che sarebbe stato meglio ristrutturare il debito greco, e Draghi ha detto è facile dirlo oggi, si dimentica che nel 2010-2011 si temeva il contagio, ora la situazione è diversa. Ristrutturare il debito greco vuol dire sostanzialmente non pagare buona parte dei debitori della Grecia, perché la ristrutturazione è un termine gentile per dire che tu non ce la fai a pagare, sei fallito e cerchi di ristrutturare i tuoi debiti verso i creditori. Però insomma, Draghi dice attenzione, nel 2010-2011 il problema non era solo la Grecia, era che un fallimento greco avrebbe dato il via probabilmente al gioco del domino su tutti gli altri fallimenti dell'Unione Europea. E poi Draghi appunto ha confermato che alzare i tassi destabilizzerebbe i paesi già deboli e che il disagio sociale in alcuni paesi è tragedia. Vittorio D'Aroldo, l'uomo della Grecia, ahimè per te, buonasera. Buonasera a voi. Dunque Vittorio, la Troica ha raggiunto un accordo sulle misure che la Grecia dovrà attuare per assicurare il rispetto degli obiettivi fissati nel programma di risanamento. Stasera c'è l'Eurogruppo. Vorrei capire in maniera molto semplice che cosa aspetta adesso l'Eurogruppo per dare via libera a questa tranche tra i 3 e gli 8 miliardi, a parte che tra 3 e 8 c'è una bella differenza. Vorrei capire da quello che ti risulta dove si stia orientando la Commissione Europea. Però qual è il quibus? Il quibus è quello che la Troica ha dato un via libera tecnico a questo accordo, dicendo che effettivamente il governo si è impegnato nella riduzione dei dipendenti pubblici, soprattutto dei dipendenti dei comuni. Sostanzialmente siamo arrivati al punto dolente di tutta la questione greca, cioè c'è un numero di dipendenti statali così ipertrofico che va ridotto. La Troica ha chiesto di ridurre 12.500 persone entro giugno, che adesso sono state spostate a settembre, e altri 12.500 entro dicembre. Questo è un fatto molto strutturale, nel senso che se non si riduce questo enorme numero di dipendenti, che hanno ridotto, affossato anche le finanze pubbliche, perché sono state assunzioni clientelari che non hanno servito naturalmente a dare servizi, ma soltanto falsi occupazioni, stipendi, questo è il punto fondamentale. Questa mattina però è molto complicata la questione, perché naturalmente crea forti tensioni sociali. Questa mattina il sindaco di Atene, che stava appunto parlando e spiegando il meccanismo di questa mobilità che per almeno 8 mesi darà il 75% dei salari, e poi per alcuni di questi dipendenti, ad esempio i vigili urbani, potranno passare alle forze di polizia, ma non per tutti, e quindi ci saranno anche appunto dei licenziamenti, è stato malmenato, la sua auto è stata danneggiata, quindi si è creato subito una forte situazione di disagio, ci sono state accuse al sindacato. E mentre il sindacato ha accusato di essere stato manipolato da forze di Alba Dorata, che sono appunto i nazisti, che stanno secondo loro invece facendo queste operazioni per destabilizzare il paese. Allora, cosa sta succedendo? Ancora una volta, quando si arriva al punto fondamentale, cioè ridurre queste spese che sono insostenibili, non ci può essere un numero così enorme di dipendenti per un paese che non lo può sostenere, nasce appunto il corto circuito. Abbiamo visto anche in Portogallo la stessa questione, salta naturalmente la vicenda dei partiti di coalizione si rovinano, manca la coesione politica, ma l'austerità non ha altra scelta se non quella di arrivare a una ristrutturazione del debito. Per la Grecia sarebbe la seconda, se ne parla ampiamente. Sì, questo per rispondere anche a un ascoltatore che dice, giustamente, guardi che poi la ristrutturazione del debito greco c'è stato, certo che c'è stato, l'haircut, il taglio di capelli. 100 miliardi. Il riferimento che faceva il Fondo Monetario era a un periodo precedente, 2010-2011, rispetto a quando poi è avvenuto, quando è iniziato il problema greco. Devo dire che il Fondo Monetario sì, sta facendo molta autocritica, va bene, ben venga l'autocritica, faccio notare che allora invece era assolutamente rigorista e con la solita linea tenuta fino a poco fa dal Fondo Monetario, tagliare, rimettere a posto i conti. Esattamente. Poi lo stesso capo economista Blanchard 6-7 mesi fa ha detto, beh, forse quella ricetta lì non ha funzionato, i tagli e basta avvitano un paese in una spirale negativa e non lo fanno uscire, mentre a noi serve anche una scossa. Di nuovo in diretta alle 17.35 minuti con Sebastiano Barisoni. Allora, Vittorio, ti ho interrotto prima nel ragionamento che facevi, al di là della ristrutturazione del debito che appunto c'è stata, ma il riferimento al Fondo Monetario era un altro, e del povero sindaco di Atene menato solo per aver annunciato tagli, diciamo, al municipio. Vittorio. Sì, esattamente. Cioè, la Troica ha chiesto di continuare questo piano di ammodernamento della struttura del pubblico impiego, che non deve diventare semplicemente un serbatoio di voti clientelari, ma deve essere appunto efficiente e fare esattamente quello che serve, perché altrimenti il settore privato non riesce a fare e ne subisce soltanto appunto gli elementi negativi di una tassazione eccessiva. Ecco per cui la Troica ha chiesto di ridurre il numero dei dipendenti pubblici, di trasferirne una parte laddove servono, ma il problema è che era il 30 giugno questo meccanismo ed è stato superato senza aver ottenuto ancora nulla, per cui è stato spostato ancora una volta questa data a settembre e nel frattempo però questa concessione della tranche di 8,1 miliardi potrebbe essere quindi ridotta a 3, perché è un sistema per verificare, tenere sotto pressione il governo e continuare a chiedergli di fare quello che naturalmente è molto impopolare fare. Però se tu hai soltanto 3 miliardi e ad agosto te ne scadono 2,2 di bond, ecco, ti danno semplicemente quel minimo sufficiente per evitare il fallimento, ma poi sei costretto il mese dopo a dover fare le cose. Questo è un po' il meccanismo. È un meccanismo su cui, ripeto, non è solo la Grecia che ha questa stanchezza su questa operazione, però è l'unico sistema. Settimana scorsa a Berlino ero presente a questo summit della Merkel, che ha raccolto 20 capi di Stato e di governo per dire cosa possiamo fare, e la Merkel ha detto: cerchiamo di avere tutti una vocazione, cioè ogni Stato deve avere qualcosa da produrre, proporre, sia il turismo, i noli marittimi, sia qualcosa in cui eccelle, perché non può esserci naturalmente solo tagli, quindi anche ecco, loro hanno capito che non può essere solo austerity a senso unico. Sì, con un po' di tempo. Comunque, dimmi un'ultima cosa, i dati congiunturali, quindi macroeconomici greci, stanno migliorando oppure no? Guarda, non è così purtroppo, il debito sta salendo al 160, quindi è possibile che ci sia bisogno ancora di una ristrutturazione, però oggi la ristrutturazione è in mano soprattutto agli stati. Ricordiamolo, noi italiani siamo quelli che stiamo pagando anche per il debito greco. Noi siamo in questo momento, certo, non gente che ha chiesto soldi, noi siamo gente che sta dando soldi a tutti gli altri, Irlanda, Portogallo, Spagna, come se non ne avessimo già abbastanza. E quindi sì, questa è la questione, cioè noi dobbiamo in qualche modo austerity, crescita, ma anche trovare una vocazione nuova e trovare qualcosa su cui anche perché proporre. Sennò voglio dire, questi soldi vengono poi bruciati, per carità. Allora, per essere molto chiari, in Grecia c'era una situazione di dipendenti pubblici devastante, ne abbiamo parlato molte volte, con privilegi incredibili che sono stati nel frattempo eliminati, con assunzioni di carattere clientelare, per cui c'era una situazione altro che il nostro pubblico impiego, visto che alcuni fanno il parallelo. Però quello che è chiaro è che in questo momento, mentre vai a tagliare ministeri, dipendenti, prebende e diciamo, a grandi agevolazioni, o la Grecia poi torna a ripartire sui consumi e con un po' di export, o se no i soldi che noi stiamo dando, i 3-8 miliardi, sì, servono per la gestione corrente, si direbbe, di un'azienda, ma non ti permettono poi di fare piani di sviluppo e di mantenerti con le tue gambe. Grazie Vittorio da Rosa. Grazie a voi. Su questo e comunque anche sulle parole di Draghi oggi vi è stata una reazione positiva dei mercati, perché Draghi ha detto attenzione, alzare i tassi di interesse, è tornato su quanto aveva già detto la settimana scorsa, alzare i tassi di interesse sarebbe devastante per alcuni paesi in difficoltà, e allora le borse. Bene, dicevo, tutte, soprattutto quelle europee, perché l'America guadagna 0,5 punto percentuale, Parigi più 1,90, Francoforte più 2, Londra più 1%, quindi l'area euro soprattutto, come si vede, Milano più 1,70%, come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore. Ciao Condila, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, borse che vanno, diciamo, bene, mi sembra Draghi, ma anche il dato sull'occupazione americana, no? Sì, poi c'era stato questo dato di venerdì che aveva visto una richiesta oltre le attese di sussidi di disoccupazione, e sostanzialmente diciamo, è un dato che venerdì era stato letto in tono negativo, del tipo il mercato del lavoro migliora, quindi questo vuol dire che sostanzialmente la Fed diminuirà prima del previsto gli stimoli monetari. Diciamo un po' un paradosso che oggi invece sui mercati finanziari è stato letto nell'altro senso, quindi si è detto sostanzialmente l'economia americana continua a marciare diciamo a pieno regime. In più Draghi ha ribadito che i tassi europei resteranno per un periodo importante di tempo uguali, se non ancora più bassi, e quindi insomma, se ciò si aggiunge che venerdì le borse erano scese, oggi qualche acquisto, insomma acquisti importanti ci stanno. Ancora per quello che riguarda gli altri dati, a Milano bene i finanziari, adesso li racconti in breve. Monte dei Paschi più 6,40%, Azimut più 3,90%, Generali più 3,20%, Popolare Milano più 2,80%, Popolare Emilia Romagna più 2,60%, Intesa San Paolo più 2,30%, Unicredit più 2,20%, e direi Ubibanca più 1,50%. Tra i non bancari invece e non risparmio gestito, fra poco parleremo di Fiat e quindi la commenteremo a parte. Sono andate bene anche i titoli del lusso, Luxottica più 2,40%, e per quello che riguarda invece Telecom Italia più 1,70%. Negativa G-Tech di un 1,40%. Reazioni sul gruppo Rizzoli Corriere della Sera? Ma ha guadagnato oggi, guadagnava il 5%, infatti siamo più 5-7% diciamo alla fine della seduta. Come è noto, insomma, l'appuntamento clou è mercoledì, quando ci sarà l'asta sui diritti, cioè l'asta sulle azioni dell'inoptato dell'aumento di capitale, e poi alla fine della settimana insomma si vedrà un po' quali sono le forze in campo. Un appuntamento, diciamo, che poi è stato anche sottolineato alla fine di settimana scorsa dal numero uno di Intesa San Paolo, Cucchiani, che ha detto insomma i conti sull'eventuale scioglimento del patto o meno si faranno quando avremo i numeri definitivi dell'aumento di capitale. Ancora per quello che riguarda i migliori e peggiori, PRL più 25,80. Qui c'è una notizia di mercato anche molto importante, no? Sì, di fine di settimana scorsa questo accordo di distribuzione da parte di PRL con Henry Schein, che è il più grande distributore di prodotti dentali del mondo. Ecco, grazie appunto a questa azienda PRL potrà distribuire il suo anestetico dentale molto importante. Insomma, sembrano notizie di settore, ma poi sul mercato hanno un effetto molto, molto importante, se pensiamo che oggi appunto PRL ha chiuso a più 25,8. Ancora tra i titoli segnalo migliori e peggiori, PRL diciamo più 25,80, Arena più 7,40, Aeroporto di Firenze più 7,13, poi appunto il Monte dei Paschi più 6,40, e molto bene RCS Media Group, come dicevamo, che ha chiuso alla fine in rialzo del 5,77%, fronte opposto Banca Popolare delle Etrurie del Lazio più 7,70%, Industria e Innovazione più 6,70%. Primi sui motori meno 4,90%. Ci chiedono gli ascoltatori sul Monte dei Paschi come mai un rialzo nettamente più forte rispetto alla media dei titoli bancari. Ma è una banca molto esposta sugli spread, oggi abbiamo visto lo spread scendere sotto 270 punti base, quindi questo è un motivo. Poi, a 2,65 sì, sì. Quindi questo è un motivo e poi insomma in giornate come questa, quando ci sono acquisti un po' indiscriminati tra virgolette sui finanziari, poi sono anche gli istituti che hanno perso di più in passato che guadagnano, per esempio anche BPR e BPM sono state tra le più forti, ha guadagnato più del 2,5%. Ancora, tra chi perde ci segnalate Zucchi, sì, meno 4,76%, IKF meno 3,30%, non ho dato l'euro, siete molto puntigliosi oggi, ma va bene così, euro su dollaro, sempre ampiamente sotto quota 1,29, 1,28,67, grazie a Cio Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, grazie, adesso c'è il traffico. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e adesso parliamo, come detto, di Fiat. Intanto il titolo più 2,88%, bene anche Xor, la controllante, più 1,80%. Che cosa è successo su Fiat oggi? Varie dichiarazioni di Marchionne. Da un lato Marchionne ha detto: abbiamo esercitato la terza opzione sul 3,3% di Chrysler. E poi ha detto: vabbè, aspetto la motivazione della Corte Costituzionale sulla illegittimità dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori sulla parte relativa alla rappresentanza. Il ministro Zanonato, però, visto che si teneva l'Assemblea degli Industriali di Torino, tra l'altro per inciso il presidente Confindustria Squinzi ha detto: visto Marchionne, il rapporto personale con lui è ottimo, in questo momento non si sta comunque in ogni caso parlando di un rientro di Fiat in Confindustria. Ma dicevo, il ministro Zanonato all'Assemblea degli Industriali di Torino ha detto: attenzione, e l'ha detto di fronte a Sergio Marchionne, preoccupa il sostanziale fermo dell'impianto di Mirafiori e la sua progressiva obsolescenza. Il sostanziale fermo dell'impianto di Mirafiori e la sua progressiva obsolescenza creano incertezza e sono un elemento di grande preoccupazione. Mi è capitato di incontrare l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, mi ha rassicurato sulla piena volontà, insieme a John Elkann, dell'azienda di mantenere in Italia produzione e dunque investimenti. A loro va la piena disponibilità del governo e mia personale a collaborare attivamente. Dobbiamo metterci in testa e mettere in testa a tutti gli italiani che la Fiat è un patrimonio del paese, va difeso, va ben voluto, va aiutato in ogni modo. E appunto delle dichiarazioni di Marchionne ascoltiamo invece la parte che riguarda sia il ritorno di Corriere della Sera che soprattutto però la Fiat e l'opzione su Weber. Se accetto il pagamento che ti abbiamo offerto, chiudiamo in settimana, no? Ma la trattativa non ha dato finora l'esito. Non ancora abbiamo niente da annunciare. Dottor Marchionne, quali le conseguenze dopo la sentenza della Consulta? Non lo so ancora, bisogna capire esattamente cosa diranno. Stiamo aspettando la decisione. È strategica per cui. Non avremmo investito i soldi se non lo fosse. Allora, varie dichiarazioni su Marchionne. Tra l'altro devo dire che Marchionne ha commentato positivamente sia l'intervento di Squinzi che l'intervento del ministro Zanonato. Ne parliamo con Andrea Malan, del Sole 24 Ore. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, il titolo oggi guadagna, va avanti, aiutaci a capire anche l'opzione su Chrysler, il 3,3%, perché poi Marchionne ha aggiunto: abbiamo esercitato la terza opzione, ma la trattativa con Weber non ha dato ancora buon esito, non abbiamo nulla da annunciare. Andrea. Beh, la cosa è semplice: l'opzione è la terza di una serie che dovrebbe arrivare a 5. Fiat ha esercitato finora opzioni sul 10% circa di Chrysler. Ha offerto stavolta poco più di 250 milioni di dollari contro i 140 che aveva offerto nel primo caso. Il motivo è che il prezzo va calcolato secondo una formula che si riferisce ai risultati di Chrysler. Chrysler va meglio e quindi il prezzo aumenta. Il problema è che su questa formula, come avete detto prima, non c'è accordo tra Fiat e il VEA, e quindi Fiat ha chiesto l'intervento del giudice del Delaware, che potrebbe, ma non è sicuro, pronunciarsi entro la fine di questo mese. Fino ad allora, se non si trova un accordo, diciamo, amichevole extra appunto tribunale, le cose sono congelate. Fiat ha maturato questo diritto, ma finché non si trova un accordo sul prezzo, il 10% di azioni resta in mano al VEA. Possiamo aggiungere che entrambi i contendenti hanno comunque interesse a fare abbastanza in fretta. Il VEA perché il suo compito è quello di pagare l'assistenza sanitaria ai pensionati Chrysler, quindi non ha un compito istituzionale di investire in aziende. E la Fiat perché, come abbiamo detto, siccome il valore di Chrysler aumenta col tempo, prima compra, meno spende. E questo è il motivo per sull'opzione Fiat. Per quello che riguarda invece le dichiarazioni di Zanonato su Mirafiori, abbiamo visto bene, Marchionne ha detto vabbè, mi è piaciuto, ottimo sia l'intervento di Squinzi che quello di Zanonato, ottimo anche su Mirafiori? Beh, di fatto Mirafiori è la prima vittima della cura dimagrante, della dieta imposta da Sergio Marchionne agli investimenti Fiat. Diciamo che il referendum con cui gli operai hanno accettato il nuovo contratto Fiat risale prima del 2011, a 2 anni e mezzo fa. Da allora Fiat ha avanzato un paio di ipotesi di investimento, ricordiamo dei SUV a marchio Alfa, delle berline a marchio Alfa, poi ha cambiato, adesso l'ultima ipotesi era di produrre dei SUV su una piattaforma Chrysler, sempre con marchio Alfa, quindi di grandi dimensioni, ma comunque con volumi molto limitati. In sostanza l'ultima idea è di fare di Mirafiori una sorta di stabilimento gemello di quello di Grugliasco, che la Fiat ha comprato a fallimento e che attualmente sappiamo è stato riadattato a produrre delle Maserati. Però gli operai sono in cassa integrazione, diciamo, per l'80-90% del tempo da più di 2 anni, quindi diciamo che da un certo punto di vista i timori di Zanonato sono giustificati. E nelle ultime dichiarazioni di diciamo degli ultimi 6 mesi di Marchionne di investimenti a Mirafiori non c'è traccia. E da lì poi il riferimento anche di Zanonato. Per quello che riguarda invece la polemica tra Marchionne e il Vescovo si è conclusa, perché non abbiamo adesso negli ultimi minuti più seguita. Andrea. Guarda, ti confesso che devo ammettere con gli ascoltatori che io sono sul treno per Atessa, dove domani, ne approfitto per ricordarlo, Marchionne annuncerà in effetti degli investimenti del gruppo Fiat, che saranno quelli della produzione di furgoni allo stabilimento di Val di Sangro. Sì. Quindi l'appuntamento è per domani, diciamo che non sono aggiornato all'ultimo minuto sulle polemiche. No, ma neanche, non ho più visto... altre polemiche su questo. Ultimo dato per quello che riguarda invece i conti Chrysler, Andrea, perché insomma continua a essere quello il fronte in questo momento più positivo del gruppo Fiat Chrysler? Beh sì, negli ultimi trimestri Chrysler ha fornito praticamente il 90% degli utili del gruppo, con il resto che diciamo vedeva un Brasile inutile, una Ferrari inutile, a compensare le perdite che sappiamo Fiat, come tutti gli altri costruttori, subisce in Europa. Non dovrebbe cambiare significativamente la situazione, almeno di qua a fine anno. Grazie Andrea Malan, e domani appunto anche l'intervento di Marchionne in Val di Sangro. Grazie Andrea Malan. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso siamo vicini al GR, quindi annuncio solo il tema. Cercheremo di unire quella che è la giornata della collera. A me non interessa se uno sia d'accordo o no. La collera contro le vessazioni, la collera degli imprenditori che si sentono vessati da un ambiente ostile al fare impresa, che vuol dire tante cose, vuol dire anche i giovani che ci si mette nel diritto civile in questo paese a ottenere l'insediamento di un capannone, una concessione edilizia e quant'altro. Non vuol dire solo c'è anche la tassazione, ma non c'è solo la tassazione. E vorrei unire quello con la tendenza in atto, se ne parla da più parti, che alcuni imprenditori, presi o dalla disperazione o dalle difficoltà, se non chiudono si trasferiscano, diciamo, di là dal confine. Il tema è serissimo e delicatissimo anche perché riguarda tutte le regioni di confine, quindi Friuli, Veneto, Trentino meno perché hanno qualche vantaggio in più, Piemonte e Lombardia. Lo facciamo dopo il GR, però 349-238-6666 per gli SMS e la pagina di Focus Economia su Facebook. Al giorno, una ogni due ore, questa è la mortalità delle imprese, anzi tre imprese che muoiono ogni due ore. Nei primi cinque mesi del 2013 sono 5.334 le imprese fallite, ossia 284 in più sullo stesso periodo del 2012. E i fallimenti riguardano soprattutto alcune attività di impresa e alcuni settori industriali, e adesso ne parleremo. Però perché ne faccio questo inizio, diciamo, senza citare l'ora, 18-9 minuti, perché oggi si è tenuta a Milano un'altra iniziativa, il mondo è quello delle costruzioni, a Piazza Affari con i suoi caschetti gialli per passare dalla protesta alla proposta contro le vessazioni quotidiane. Allora qui vediamo di capirci, non sono solo quelle fiscali, ma sono anche quelle soprattutto normativo-burocratiche. Le varie associazioni di categoria hanno presentato i cahiers de doléances, cioè i lamenti, diciamo, nei confronti di 100 vessazioni che professionisti, imprese, operatori del settore incontrano quotidianamente nel loro lavoro. Però per essere propositivi rispetto a ogni vessazione, non so, la procedura per passare dal progetto a cantiere, il processo di certificazione e autorizzazione urbanistica, le procedure di gara negli appalti pubblici, gli adempimenti fiscali, attività di gestione del cantiere e quant'altro, è accompagnata ognuna di queste vessazioni da una proposta di semplificazione. Un numero su tutti, però: il tempo necessario per un procedimento civile in Italia è di 1210 giorni contro i 390 giorni della Francia, i 394 della Germania e i 399 della Gran Bretagna. Ancora, un permesso edilizio in paesi civili, voglio dire, poi noi, sembra quasi che siamo noi i più duri di tutti, e guarda che scempio abbiamo fatto del nostro paese tra condoni e abusivismo. Comunque, la dimostrazione che poi delle volte la burocrazia è solo un ostacolo, non previene il danno. Comunque, il tempo per un permesso edilizio negli Stati Uniti sono 27 giorni, però andiamo in Europa. In Europa sono 97 giorni in Germania, 99 in Gran Bretagna, 180 in Spagna, 180 in Francia. Allora usiamo la Spagna e la Francia come riferimento. Da noi quanti sono? 234. È chiaro che il settore della costruzione è quello più massacrato da questa crisi, ma non è, e da questi fallimenti, ma non è l'unico, perché è vero che a fallire sono soprattutto i costruttori dell'edilizia, ma i settori più colpiti sono le attività manifatturiere, 1131 fallimenti, le costruzioni 1138, il commercio sia al dettaglio che all'ingrosso 1200, e stiamo parlando dei primi 5 mesi dell'anno. E anche le attività immobiliari e le attività di trasporto e magazzinaggio, che sono passate da 93 fallimenti nei primi 5 mesi del 2012 a 281 nei primi 5 mesi del 2013, più 50%. E la situazione di crisi l'ha illustrata a margine appunto della seconda giornata della collera il presidente di Assimpredi Lance, Claudio De Albertis. Ascoltiamo al microfono il nostro Fabio Pisano. Qualche cosa sta arrivando, questo decreto e altri provvedimenti sono un segnale importante, però nel frattempo, questi quattro mesi, la situazione del settore è molto peggiorata, la cassa integrazione ha segnali spaventosi, i fallimenti delle imprese crescono. Ecco, questa è una situazione alla quale bisogna dare delle risposte molto importanti, molto più ampie. Adesso si fanno alcuni provvedimenti legislativi che sembrano non avere il coraggio necessario, e poi soprattutto l'abbiamo visto, perché l'abbiamo monitorato da tempo, spesso a un'azione legislativa non consegue una gestione della norma che consenta a noi di lavorare, per cui si ripiomba in questo vortice, in questo magma in cui alla fine si perde anche l'entusiasmo di fare questo lavoro. Allora, io non vorrei essere polemico, però mi rendo conto che la politica abbia altri riferimenti. Devo dire che interessante la discussione sul futuro del PDL, sul futuro del PD, molto interessante. Interessante però anche capire cosa ne resterà di questo paese dopo lo tsunami che sta attraversando il nostro sistema produttivo. Poi di tutto il resto possiamo parlare, no? Va bene l'IMU, va bene l'IVA, ma vogliamo anche iniziare a individuare delle politiche per, guardate che politiche per le imprese vuol dire anche politiche per il lavoro, perché non è il pubblico impiego che crea lavoro in questo paese, cito solo un sms che è appena arrivato. Sono 2 anni che attendo per ampliare il mio laboratorio di pasticceria. Uno può far ridere, no? Però voglio dire, esiste questo nella vita. Attendo da 2 anni di ampliare il mio laboratorio di pasticceria, ho perso nel frattempo commesse, soldi per fiere, pubblicità, buttati a casa, buttati i soldi, e ho dovuto mettere a casa 2 persone. Forse a settembre finisce l'odissea. Io lo dico molto tranquillamente, ma così come c'è stata una grande rivoluzione nella pubblica amministrazione con la Bassanini per quello che riguarda i privati, con l'autocertificazione, ma non si riesce a snellire quelle che sono le procedure burocratiche, aumentando eventualmente la parte sanzionatoria sia nel penale che nel civile se uno dichiara il falso? Ma possiamo andare avanti con le autorizzazioni di impatto ambientale che poi possono essere impugnate da qualunque giudice civile può far risaltare tutto il banco? Non si può lavorare in questo modo in un paese, soprattutto se sei in ginocchio. Allora, sentiamo il presidente Squinzi intanto per quello che riguarda il settore dell'edilizia, che lo ripeto è il più massacrato tra i settori massacrati del nostro settore produttivo. L'edilizia negli ultimi 2 anni ha perso 450.000 posti di lavoro, è una situazione drammatica per incidere sulla quale sarebbe sufficiente un po' di semplificazione, un po' di impegno a dirimere tutte le complicazioni normativo-burocratiche di questo paese. Dobbiamo farlo perché solo il mondo delle costruzioni è sicuramente il fattore che può portare più rapidamente una crescita di nuovo nel nostro paese. Ancora, scrivete, io vorrei lanciare, lo dico qua pubblicamente, un'iniziativa come facciamo con Disperati Mai sulla disperazione per la pubblica amministrazione, per la burocrazia. Non ne posso più di funzionari legulei che non capiscono dove stia precipitando il paese. Allora, mi scrive un imprenditore, dove cavolo è finito, che ci ha messo 65 giorni, eccolo qua, 65 giorni per ottenere l'autorizzazione a rifare l'intonaco al muro di cinta del suo stabilimento. Ma adesso, ma stiamo scherzando? 65 giorni? 1.000 giorni mediamente per ottenere, appunto, questo ce lo scrivono molti, una sentenza nel civile. 1.000 giorni, ma è una condanna, 1.000 giorni, non è una sentenza. Allora, gli avvocati che tanto mi hanno scritto, so benissimo che hanno delle proposte. Allora, invece di polemizzare con il ministro, andiamo a un bel accordo e vediamo come si può snellire la giustizia civile. Questo vogliamo sentire, non la difesa dell'ordine di categoria. Sempre presidente di Confindustria Squinzi sulla semplificazione della burocrazia. La semplificazione della burocrazia, è anni che se ne parla. Prego. Noi abbiamo bisogno di semplificazione. Voi ricorderete che io ho messo al centro del mio programma del quadriennio di presidenza in Confindustria come punto prioritario la semplificazione normativo-burocratica di questo paese. Ci stiamo battendo. Questo governo sta ascoltando, sta dando qualche segnale di attenzione. Abbiamo sottoposto nelle settimane scorse un primo pacchetto di semplificazioni, sono stati recepiti, però il cammino è ancora molto molto lungo. Noi possiamo essere veramente il fattore che può far ripartire questo paese, soltanto abbiamo bisogno di un paese normale, un paese che ci permetta di ritornare a lavorare, di ritornare ad avere il gusto di fare investimenti senza confrontarci giorno per giorno contro vessazioni di ogni tipo. Si può fare impresa, cito gli sms che stanno arrivando, in un paese in cui ci vogliono 6 mesi per cambiare un'insegna? con la relazione di impatto ambientale, le foto e i disegni. Chiedo 6 mesi per cambiare un'insegna. Poi fossimo la Scandinavia, in cui tutta questa burocrazia, permessi e autorizzazioni hanno portato a un paese che sembra un giardino svedese. Voglio dire, abbiamo una selva di insegne, una urbanizzazione selvaggia in buona parte del paese. Abbiamo condonato il condonabile e ancora siamo qui con i 6 mesi per un'insegna sulla relazione di impatto ambientale con tanto di foto e disegni. Ma voi scrivete, che adesso faremo una rubrica su questo, vediamo. Allora, di fronte a questo abbiamo una parte delle imprese italiane che sopravvivono grazie all'export, una parte delle imprese italiane che non sopravvivono, e citavo appunto i fallimenti, e io cito solo i fallimenti perché poi ci sono quelle che chiudono silenziosamente, muoiono nel silenzio, praticamente appunto ogni 2 ore in Italia 3 imprese. E poi c'è una parte delle imprese che pur di non morire fa una scelta che probabilmente non avrebbe voluto fare, va all'estero, ma non all'estero a delocalizzare, va oltre confine, va dove c'è un'accoglienza non marziana ma semplicemente un po' più umana nei confronti di chi vuole fare impresa e non deve lottare anche con la burocrazia. Chi deve fare impresa deve lottare contro i mercati, contro i concorrenti, sull'innovazione di processo, contro, diciamo, il calo della domanda, ma non deve lottare contro la burocrazia. So che sembra strano, ma non dovrebbe lottare contro la burocrazia. Comunque di questo parliamo dopo il traffico. C'è l'Alta Savoia, c'è la Svizzera, non solo il Canton Ticino, e poi c'è l'Austria, c'è la Carinzia, c'è la Slovenia, ci sono tutto un insieme di paesi che circondano le Alpi, che confinano con noi, che dicono agli imprenditori italiani: venite, venite, perché qui vi offriamo possibilità di lavoro diverse e un diverso numero anche di lungaggini burocratiche che non sono lungaggini. Noi ce ne occupammo, se non ricordo male, circa 6 mesi fa, a dicembre dell'anno scorso. C'era un'iniziativa, l'erba del vicino è sempre più verde, ossia 50 piccoli e medi imprenditori veneti erano andati in Carinzia per capire perché a soli 300 km vi fossero condizioni favorevoli alle imprese e anche capacità di attrarre investimenti. Vorrei rifare il punto su questo con Sandro Venzo, che ha un'azienda a Romano De Zerino in provincia di Vicenza, stampa componenti dell'automotive, arredamenti, e il fatturato tra l'altro è andato anche bene nel 2012, è più 30% se non ricordo male. Mi sente, Venzo? Buonasera. Sì, buonasera dottor Baglietoni, a lei e a tutti i radioascoltatori. Sì, 2012 abbiamo fatto più 20, sì. Ecco, e quest'anno come va? Ma quest'anno siamo sullo stesso trend dell'anno scorso, io credo che riusciremo a chiudere con un più 5, non di più. Quest'anno abbiamo aumentato il personale, ora siamo in 14, però non riusciremo a fare un più 20 quest'anno, ma ci basta stare al più 5 che abbiamo previsto. Quindi se tutto va bene siamo soddisfatti di quest'anno, sapendo che stiamo investendo più non posso e che stiamo lavorando quasi a turno, quindi noi ci crediamo, anche se questo paese sembra che non creda in noi. Comunque noi siamo ancora qui a combattere questa guerra economica. Ecco, sì, non le dico i messaggi che mi stanno arrivando su le lungaggini burocratiche, addirittura dunque hanno chiesto per montare un gazebo in un'azienda, hanno chiesto un imprenditore se ha una postazione di anemometro fisso per misurare la velocità del vento. Io non so che cosa fumino delle volte nella pubblica amministrazione italiana, chi sia il pusher di certi burocrati. Comunque, restiamo con lei. Che cosa vi offrirono in Carinzia a suo tempo? Ma che allora, si arrabbiò molto il governatore Luca Zaia, disse, ma insomma, qui non riusciamo. Però si arrabbiò non tanto con voi quanto con le difficoltà che aveva lui a tenere gli imprenditori in Veneto. Prego. Diciamo che la Carinzia rideva della situazione italiana quando provava a spiegarci che una volta che la Carinzia ha deciso qual è la zona dove costruire, e quindi fanno loro tutti i passaggi interni, quindi non so, ci mettono 3 mesi, poi decidono che quella è la zona, quando tu vai da loro a chiedergli il capannone, loro in una settimana da quando tu hai il capannone ti danno tutti i permessi che ti servono. Quindi nella stessa giornata vengono insieme i vigili del fuoco, i vari enti preposti, fanno un giro unico e ti danno il sì o il no nella stessa giornata. Quindi noi ci domandammo se eravamo su Scherzi a Parte o se eravamo veramente in un paese a 300 km da noi. Quindi questa era una cosa che ci colpì in maniera... ci fece arrabbiare, più che ci colpì, ci fece veramente arrabbiare, perché sappiamo che qui per fare un ampliamento ci vogliono quasi 20 kg di carta, perché ormai la pesiamo, non andiamo più a fogli, e quindi è una situazione veramente impressionante, tenendo conto che poi magari manca un timbro e magari devi riprendere l'iter o rifare parte dell'iter, quindi cose veramente a volte imbarazzanti. Ma adesso io lo dico molto serenamente, io vorrei che tutti gli imprenditori italiani restassero in Italia, ci mancherebbe, non stiamo tifando né Carinzia né Svizzera, ma ci mancherebbe. Però vorrei capire, mi fa un parallelo tra una settimana per avere le autorizzazioni, anche lì, lei ha ragione nel dire i vari soggetti vengono tutti assieme, perché noi di solito in Italia vengono uno per volta e a settimane e mesi di distanza, se non ricordo male. Sì, ma oltre a questo hanno anche le idee, hanno poche idee ma confuse, nel senso che succede che la classica multipla, quindi presa che si attacca al muro, targata CE, ci sono enti che l'accettano, enti che non l'accettano, quindi la confusione, siccome abbiamo troppi balzelli, crea veramente anche tra di loro un po' di cioè non si capiscono neanche tra di loro, a volte succede anche questo, ed è un paradosso. Cioè anche su una presa multipla industriale, d'alimentazione industriale? A volte assolutamente sì, perché c'è chi l'accetta e c'è chi dice che non sarebbe proprio così. Ecco, male. Ma dicevo, quando voi avete visto, che confronti avete fatto? Perché io poi vorrei sapere, avete deciso di trasferirvi in Carinzia, state tenendo allora, botta ancora, mi dica. Le posso garantire che vogliamo tenere ancora botta, come ha detto lei, e siamo ancora lì a sperare che dal governatore Tai a tutti gli altri attori politici riescano a fare qualcosa. Posso però confermarle che da settembre 5 imprenditori che intanto avevano così conosciuto la strada della Carinzia hanno la volontà e 3 sono già praticamente pronti dei villaggi a aprire un ufficio in Carinzia, quindi qualcuno si è fatto tentare e prova. Sì, tra l'altro io leggo, sto leggendo delle cose incredibili, addirittura in un bar per cambiare l'insegna della marca di un caffè, da sei mesi aspetta nulla osta della regione per un vincolo paesaggistico, ci dica anche la regione, così la citiamo. Sembrano cavolate, io lo so, però poi quando te le trovi sulla pelle in un periodo in cui le cose non vanno nemmeno bene fanno ancora più arrabbiare. Senta, delle altre proposte che vi erano state avanzate, qual è quella che le aveva colpita di più, al di là diciamo della settimana per avere il nulla osta, che da noi è fantascienza? Allora, quella che mi ha colpito di più è la tassazione al 25%, okay, quindi tassazione fissa unica, la possibilità di detrarre al 60% tutto ciò che lei utilizza per fare impresa, il fatto che ti dicono chiaramente che poche regole, ma se sgarri ti bastonano. Ti bastonano in che senso? Ti bastonano nel senso che tu vai là devi fare un business plan di 5 anni e se vai lì a fare il furbetto... i soldi te li ricomandano indietro, quelli che ti danno a fondo perduto con gli interessi molto molto maggiorati, nel senso che hanno bisogno di imprenditori e non di fuffacchiotti, insomma. Non farlocchi, quindi, certo. Assolutamente. E quindi hanno delle regole molto molto chiare. E poi l'altra cosa che fa rimanere male è che il lavoratore lì percepisce di più, ma costa meno l'azienda. Quindi i paradossi di un paese come il nostro che non riesce a capire che se al lavoratore non dai più soldi in tasca ma non aumenti il costo aziendale perché sennò lo mandi fuori di mercato, se al lavoratore non dai più soldi in tasca non può certamente avere il potere d'acquisto e far ripartire il volano dell'economia con gli acquisti. Lei resta però in Italia per ora? Io assolutamente sì, perché ci credo ancora. Ho però la speranza a 42 anni di vedere un paese che cambia. Vediamo se riuscirò ad avere un panorama diverso o se mi resterà solamente una settimana. E poi non costa niente la riforma della burocrazia, non costa niente, costa solo il posto di alcuni burocrati. Vogliamo capire, non mi parlate in questo caso del patto di stabilità, del rigore, la Merkel non c'entra nulla, è solo colpa nostra, o meglio merito di alcuni soggetti. Quindi in questo caso il ciclo economico, i conti pubblici sono solo una scusa. Vediamo se ci sarà un ministro che riuscirà a portare una riforma della funzione pubblica in senso stretto e soprattutto di quelle che sono le autorizzazioni per le imprese. Ripeto, non si tratta, non scrivete il western c'è già in alcune aree del paese nonostante le norme, qui si tratta di non mettere i bastoni tra le ruote e poi di sanzionare, lo diceva bene anche Renzo, quello che quello che sgarra a sanzionarlo duramente, senza condoni o altre amenità. Venzo, io spero che lei resti, come io tutti i suoi... La volontà ce l'abbiamo, quindi la volontà c'è, speriamo ci sia anche la forza di rimanere, e ripeto, un paese che ci dia una mano nel restare qui. In bocca al lupo a lei e a tutti i Venzo d'Italia, che sono oltre 4 milioni, i piccoli imprenditori di questo paese. Da Sebastiano Berigioni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.